Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Nei baci di Elena era, in verità, per l'amato, l'elisire sublimissimo. Di tutte le mescolanze carnali, quella pareva loro la più completa, la più appagante. Credevano talvolta che il vivo fiore delle loro anime si disfacesse, premuto dalle labbra, spargendo un succo di delizie per ogni vena, insino al cuore. E talvolta avevano al cuore la sensazione illusoria come d'un frutto molle e roscido che vi si sciogliesse. Tanto era la congiunzione perfetta che l'una forma sembrava il natural complemento dell'altra. Per prolungare il sorso contenevano il respiro finché non si sentiva morire d'ambascia, mentre le mani dell'una tremavano sulle tempie dell'altro, smarritamente. Un bacio li prostrava più di un amplesso. Distaccati si guardavano, con gli occhi fluttuanti in una nebbia torpida, ed ella diceva con la voce un po' roca, senza sorridere, «Moriremo». «Mi sembra», diceva ad occhi chiusi, «che tutti i pori della mia pelle siano come un milione di piccole bocche anelanti alla tua, spasimanti per essere elette, invidiose l'una dell'altra». Egli allora, per equità, si metteva a coprirla di baci rapidi e fitti, trascorrendo tutto il bel corpo, non lasciando intatto alcun minimo spazio, non allentando la sua opera, mai. Ella rideva, felice, sentendosi cingere come d'una vesta invisibile. Rideva e gemeva, folle, sentendo la furia di lui imperversare. Rideva e piangeva, perduta, non potendo più reggere al divorante ardore. Poi con uno sforzo repentino faceva prigione il collo di lui fra le sue braccia, l'allacciava con i suoi capelli, lo teneva tutto palpitante, simile a una preda. Egli, stanco, era contento di cedere e di rimaner così preso in quei vincoli. Guardandolo, ella esclamava, come sei giovine. La giovinezza in lui, contro tutte le corruzioni, contro tutte le dispersioni, resisteva, persisteva a somiglianza di un metallo inalterabile, di un aroma indistruttibile. Lo splendor sincero della giovinezza era appunto la qualità sua più preziosa. Alla gran fiamma della passione, quanto in lui era più falso, più trito, più artificiato, più vano, si consumava come un rogo. Certi suoi abbandoni parevano di un fanciullo inconsapevole, certe sue fantasie erano piene di grazia, di freschezza e di ardire. Queste fallaci purificazioni ed elevazioni del sentimento avvenivano sempre nei languidi intervalli del piacere, quando sul riposo della carne l'anima provava un bisogno vago di idealità. Allora anche risorgevano nel giovine le idealità dell'arte che egli amava e gli tumultuavano nell'intelletto tutte le forme un tempo cercate e contemplate, chiedendo di uscire. Il pensiero di dar gioia all'amante con un verso numeroso, con una linea nobile, lo spinse all'opera. Egli scrisse la Simona e fece le due acqueforti dello Zodiaco e della Tazza d'Alessandro. E leggeva, nell'esercizio dell'arte, gli strumenti difficili, esatti, perfetti, incorruttibili, la metrica e l'incisione, e intendeva proseguire e rinnovare le forme tradizionali italiane con severità, riallacciandosi ai poeti dello Stil Novo e ai pittori che precorrono il Rinascimento. Il suo spirito era essenzialmente formale. Più che il pensiero, amava l'espressione. I suoi saggi letterari erano esercizi, giochi, studi, ricerche, esperimenti tecnici, curiosità. Tra le cose più preziose possedute da Andrea Sperelli Era una coperta di seta fina, d'un colore azzurro disfatto, intorno a cui giravano i 12 segni dello zodiaco in ricamo. Il sole, trapunto d'oro, occupava il centro del cerchio. Le figure degli animali, disegnate con uno stile un po' arcaico, che ricordava quello dei mosaici, avevano uno splendore straordinario. Tutta quanta la stoffa pareva degna da mantare un talamo imperiale. Essa, infatti, proveniva dal corredo di Bianca Maria Sforza, nipote di Ludovico il Moro, la quale andò sposa all'imperator Massimiliano. La nudità di Elena non poteva in verità avere una più ricca ammantatura. Talvolta, mentre Andrea stava nell'altra stanza, ella si svestiva in furia, si distendeva nel letto sotto la coperta mirabile e chiamava forte l'amante. Ed a lui che accorreva ella dava immagine d'una divinità avvolta in una zona di firmamento. Anche talvolta, volendo andare innanzi al camino, ella levavasi dal letto traendo seco la coperta. Freddolosa si stringeva addosso la seta con ambo le braccia e camminava a piedi nudi, con passi brevi, per non implicarsi nelle pieghe abbondanti. Il sole splendevale sulla schiena, attraverso i capelli disciolti. Lo scorpione le prendeva una mammella. Un gran lembo zodiacale strisciava dietro di lei sul tappeto, trasportando le rose, se ella le aveva già sparse. Una sera tornavano a cavallo dall'Aventino, giù per la via di Santa Sabina, avendo ancora negli occhi la gran visione dei palazzi imperiali incendiati dal tramonto, rossi di fiamma tra i cipressi nerastri, che penetrava una polvere d'oro. Cavalcavano in silenzio, poiché la tristezza di Elena era sì comunicata all'amante. Dinanzi a Santa Sabina questi fermò il baio dicendo: «Ti ricordi?» Alcune galline che becavano in pace fra i ciuffi d'erba si dispersero ai latrati di Famulus. Lo spiazzo invaso dalle gramigne era tranquillo e modesto, come il sagrato di un villaggio, ma i muri avevano quella luminosità singolare che riflettesi dagli edifici di Roma nell'ora di Tiziano. Elena anche sostò. «Come pare lontano quel giorno», disse con un po' di tremito nella voce. Andrea credé di sentire nella voce di lei il rimpianto. Che rimpiangeva ella mai? Il loro amore non vedeva dinanzi a sé giorni anche più dolci. La primavera non teneva già a Roma. Egli, perplesso, quasi non l'ascoltava più. I cavalli scendevano al passo l'uno a fianco dell'altro, talvolta respirando forte dalle froge o accostando i musi, come per confidarsi un segreto. Famulus andava su e giù in perpetua corsa. «Ti ricordi?» seguitava Elena. «Ti ricordi di quel frate che ci venne ad aprire quando suonammo la campanella?» «Sì, sì, come ci guardò stupefatto. Era piccolo, piccolo, senza barba, tutto rugoso. Ci lasciò soli nell'atrio per andare a prendere le chiavi della chiesa. E tu mi baciasti. Ti ricordi?» «Sì. E tutti quei barili nell'atrio. E quell'odore di vino mentre il frate ci spiegava le storie intagliate nella porta di cipresso. E poi la Madonna del Rosario, ti ricordi? La spiegazione ti fece ridere, ed io sentendoti ridere non potei frenarmi, e ridemmo tanto, innanzi a quel poveretto che si confuse, e non aprì più bocca neanche all'ultimo per dirti grazie.» Dopo un intervallo ella riprese: «E a Sant'Alessio, quando tu non volevi lasciarmi vedere la cupola per il buco della serratura, come ridemmo anche là.» Tacque di nuovo. Veniva su per la strada una compagnia d'uomini con una bara, seguitata da una carrozza pubblica piena di parenti che piangevano. Il morto andava al cimitero degli Israeliti. Era un funerale muto e freddo. Tutti quegli uomini dal naso adunco e dagli occhi rapaci si somigliavano tra loro, come consanguinei. Affinché la compagnia passasse, i due cavalli si divisero, prendendo ciascuno un lato rasente il muro, e gli amanti si guardarono al di sopra del morto, sentendo crescere la tristezza. Quando si riaccostarono, Andrea domandò: «Ma tu che hai? A che pensi?» Ella esitò prima di rispondere. Teneva gli occhi abbassati sul collo dell'animale, accarezzandolo col pomo del frustino, irresoluta e pallida. «A che pensi?» ripeté il giovine. «Ebbene, Te lo dirò. Io parto mercoledì. Non so per quanto tempo, forse per molto, per sempre. Non so. Quest'amore si rompe per colpa mia. Ma non mi chiedere come. Non mi chiedere perché. Non mi chiedere nulla, ti prego. Non potrei risponderti. Andrea la guardò quasi incredulo. La cosa gli pareva così impossibile che non gli fece dolore. Tu dici per gioco, è vero, Elena? Ella scosse la testa, negando, poiché le si era chiusa la gola. Il cavallo. Dietro di loro le campane di Santa Sabina e di Santa Prisca cominciarono a suonare nel crepuscolo. Essi trottavano in silenzio, suscitando gli echi sotto gli archi, sotto i templi, nelle ruine solitarie e vacue. Lasciarono a sinistra San Giorgio in velabro, che aveva ancora un bagliore vermiglio sui mattoni del campanile, come nel giorno della felicità. Costeggiarono il foro romano, il foro di Nerva, già occupati da un'ombra azzurrognola simile a quella dei ghiacciai nella notte. Si fermarono all'arco dei pantani, dove li attendevano gli staffieri e le carrozze. Appena fuori di sella, Elena tese la mano d'Andrea, evitando di guardarlo negli occhi. Pareva che ella avesse gran fretta di allontanarsi. «Ebbene», le chiese Andrea, aiutandola a montare nel legno, «a domani. Stasera no». Il commiato sulla via Nomentana, quell'addio au grand air voluto da Elena, non sciolse alcuno dei dubbi che Andrea aveva nell'animo. Quali erano mai le cagioni occulte di quella partenza subitanea? Invano egli cercava di penetrare il mistero. I dubbi l'opprimevano. La gelosia che dopo le prime apparite era sdividuata innanzi all'assiduo ardore di Elena risorgeva in lui, destata dalle immaginazioni impure. E il sospetto che un uomo potesse nascondersi in quell'oscuro intrico gli dava un tormento insopportabile. Talvolta contro la donna lontana l'invadeva una bassa ira, un rancore pien d'amarezza e quasi un bisogno di vendetta, come se ella lo avesse ingannato e tradito per abbandonarsi a un altro amante. Anche talvolta credeva di non desiderarla più, di non amarla più, di non averla mai amata. Ma quegli oblii non duravano. La primavera romana fioriva con inaudita letizia. La città di Travertino e di Mattone sorbiva la luce come un'avida selva. Le fontane papali si levavano in un cielo più diafano di una gemma. La piazza di Spagna odorava come un roseto e la Trinità dei Monti in cima alla Scala, popolata di putti, pareva un duomo d'oro. La sua avventura con Elena Muti era ormai notissima. Come o prima o poi, o più o meno, nella società elegante di Roma e in ogni altra società, son note tutte le avventure e tutte le flirtations. Le precauzioni non valgono. Ciascuno ivi è così buon conoscitore della mimica erotica che gli basta sorprendere un gesto o un'attitudine o uno sguardo per avere un sicuro indizio, mentre gli amanti o coloro che son per divenir tali non sospettano. Un terribile segugio era, per esempio, Don Filippo del Monte, il commensale della Marchesa d'Ateleta. Ma in verità Elena Muti non si preoccupava molto delle maldicenze mondane. E in questa sua ultima passione era giunta a temerità quasi folli. Or dunque, L'avventura aveva d'un tratto innalzato Andrea Sperelli, in cospetto delle dame, a un alto grado di potere. Un'aura di favore l'avvolse e la sua fortuna in poco tempo divenne meravigliosa. Un fenomeno assai frequente nelle società moderne è il contagio del desiderio. Un uomo che sia stato amato da una donna di pregi singolari eccita nelle altre l'immaginazione e ciascuna arde di possederlo per vanità e per curiosità, a gara. Il fascino di Don Giovanni è più nella sua fama che nella sua persona. Inoltre giovava allo Sperelli quel certo nome che egli aveva di artista misterioso. Ed erano rimasti celebri due sonetti, scritti nell'albo della principessa di Ferentino, nei quali, come in un dittico ambiguo, egli aveva lodato una bocca diabolica e una bocca angelica, quella che perde le anime e quella che dice ave. Andrea Sperelli non esitò un istante dinanzi alle lusinghe. A quella specie di raccoglimento prodotto in lui dal dominio unico di Elena succedeva ora il dissolvimento. Non più tenute dall'ignea fascia che le stringeva ad unità, le sue forze tornavano al primitivo disordine. Non potendo più conformarsi, adeguarsi, assimilarsi a una superior forma dominatrice, l'anima sua, camaleontica, mutabile, fluida, virtuale, si trasformava, si difformava, prendeva tutte le forme. Egli passava dall'uno all'altro amore con incredibile leggerezza, vagheggiava nel tempo medesimo diversi amori, tesseva senza scrupolo una gran trama di inganni, di finzioni, di menzogne, di insidie, per raccogliere il maggior numero di prede. L'abitudine della falsità gli ottundeva la coscienza. Per la continua mancanza della riflessione, egli diveniva a poco impenetrabile a se stesso. Rimaneva fuori del suo mistero. A poco egli quasi giungeva a non veder più la sua vita interiore. Sempre vivo, spietatamente vivo, era in lui un istinto. L'istinto del distacco da tutto ciò che l'attraeva senza avvincerlo. E la volontà disutile come una spada di cattiva tempra tendeva al fianco di un ebreo o di un inerte. Andrea aveva parlato d'amore a Donna Bianca Dolcebuono, da principio senza quasi pensarci, istintivamente attratto forse per virtù di un indefinito riflesso che a colei veniva dall'essere amica di Elena. Donna Bianca Dolcebuono era l'ideal tipo della bellezza fiorentina, quale fu resa dal ghirlandaio nel ritratto di Giovanna Tornabuoni che è in Santa Maria Novella. Aveva un chiaro volto ovale, la fronte larga, alta e candida, la bocca mite, il naso un poco rilevato, gli occhi di quel color taneo scuro lodato dal fiorenzuola. Prediligeva disporre i capelli con abbondanza sulle tempie, fino a mezzo delle guance, alla foggia antica. Ben le conveniva il cognome, poiché ella portava nella vita mondana una bontà nativa, una grande indulgenza, una cortesia eguale per tutti e una parlatura melodiosa. Era insomma una di quelle donne amabili, senza profondità né di spirito né di intelletto, un poco indolenti, che sembravano nate a vivere in piacevolezza e a cullarsi nei discreti amori come gli uccelli in sugli alberi fiorenti. Quando udì le frasi di Andrea, ella esclamò con un grazioso stupore: «Dimenticate Elena così presto?» Poi, dopo alcuni giorni di graziose esitazioni, le piacque di cedere. E non di rado ella parlava di Elena al giovane infedele, senza gelosia, candidamente. «Ma perché mai sarà partita prima del solito quest'anno?» gli chiese una volta sorridendo. «Io non so», rispose Andrea senza poter nascondere un po' di impazienza e di amarezza. «Tutto proprio è finito?» «Bianca, vi prego, Parliamo di noi, interruppe egli con voce alterata, poiché quei discorsi lo turbavano e irritavano. Ella rimase un poco pensosa, come se volesse sciogliere un enigma, quindi sorrise scotendo la testa, come se rinunziasse, con una fugace ombra di malinconia sugli occhi. Così è l'amore. E rese all'amante le carezze. Andrea, possedendola, possedeva in lei tutte le gentili donne fiorentine del 400, alle quali cantava il Magnifico. E si vede in ogni lato che il proverbio dice il vero, che ciascun muta pensiero, come l'occhio è separato, vedesi cambiare amore. Come l'occhio sta di lunge, così sta di lunge il core, perché appresso un altro il punge, col qual tosto e si congiunge, con piacere e con diletto. Allorché nell'estate ella era per partire, disse prendendo congedo senza nascondere la sua commozione gentile, io so che quando ci rivedremo voi non mi amerete più. Così è l'amore. Ma ricordatevi di un'amica. E donna bianca si dileguò, e vennero altre, talvolta, in coppia. Ciascuno di questi amori portò a lui una degradazione novella. Ciascuno l'inebriò di una cattiva ebbrezza senza pagarlo. Ciascuno gli insegnò una qualche particolarità e sottilità del vizio a lui ancora ignota. Egli aveva in sé i germi di tutte le infezioni, corrompendosi, corrompeva. Il pervertimento dei sensi gli faceva cercare rilevare nelle sue amanti quel che c'era in loro men nobile e men puro. Una bassa curiosità lo spingeva a scegliere le donne che avevano peggior fama. Un crudel gusto di contaminazione lo spingeva a sedurre le donne che avevano fama migliore. Tra le braccia dell'una egli si ricordava di una carezza dell'altra, di un modo di voluttà appreso dall'altra. Talvolta, e fu in specie quando la notizia delle seconde nozze di Elena Muti gli riaprì per qualche tempo una ferita, piacevasi di sovrapporre alla nudità presente la evocata nudità di Elena e di servirsi della forma reale come di un appoggio sul qual godere la forma ideale. Nutriva l'immagine con uno sforzo intenso finché l'immaginazione giungeva a possedere l'ombra quasi creata. Pur tuttavia egli non aveva culto per le memorie dell'antica felicità. Talvolta anzi quelle gli davano un appiglio a una qualunque avventura. E il piccolo teschio d'avorio appartenuto al cardinale Immerraet, il gioiello mortuario segnato del nome di una Ippolita oscura, gli suscitò il capriccio di tentare donna Ippolita Albonico.